Blu Radio Sera. Ed eccoci qua all'interno di Blu Radio Sera, un ben sintonizzati a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è l'11 gennaio del 2011, una data così piena di numeri uno. A darvi il benvenuto siamo io, Flavio Bilato, e dall'altra parte del vetro che i nostri ospiti, che sono dei numeri uno, c'è Maurizio Calzavara. Buonasera anche a te, Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, chi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare in questa serata non più così tanto gelida come me l'aspettavo? No, non dico che faccia caldo. Ti ho visto in maniche corte. Sì, beh, io no, loro sì. Loro sì, sono ufficialmente in maniche corte. Sì, e quindi sono venuti a trovarci gli Happy Tendencies. Esattamente. Direttamente dal lago di Garda, che bello. Esatto. Dalla parte west. Tanto non per... ti vedo, sei lontano. Sono dall'altra parte del vetro, a qualche metro da te, Lisa. Ecco qua, quindi cominciamo anche con la presentazione. Salutiamo innanzitutto Lisa Mary Simmons, che è la voce del gruppo Hippie Tendencies. Ah, guarda, questa volta perfettamente hai fatto la pronuncia. Ah, la sì? Prima, questa volta hai seccato proprio. Bene, allora vedrò di farmi una registrazione e considerare seriamente la mia pronuncia. Bravissimo. Americana o inglese. Grazie tantissimo dell'invito, siamo felicissimi di essere qua con voi. E salutiamo anche gli altri componenti del gruppo, quindi Marco, Massimo, Cesare e abbiamo anche Christian. Ciao a tutti. Benissimo, abbiamo sentito le voci di tutti, poi le sentiremo nel corso della trasmissione per capire qualcosa di più del gruppo Hippie Tendencies. L'ho pronunciato esatto? Sì, è fantastico. Perfetto, bene. Adesso ormai ce l'hai, nessuno te la toglie. Sì, via più. Prima di dirlo bisogna caricarsi un attimo. esatto, fa sentire quell'H. Bene. E, con la loro musica, la loro proposta musicale, un nuovo album che porta lo stesso nome del gruppo, vero Lisa? È vero, si chiama Hippie Tendencies, sia il gruppo che il disco, e anche in canzone che è sul disco, quindi un triplo riferimento. Esatto, al gruppo. Esatto. Benissimo, ma partiamo qualche anno fa, esattamente era forse il 2005. Sì, è successo 2005. Un qualcosa di particolare. Il piano, Lisa, dovevi studiare il piano. È vero, esattamente così che è funzionato, che io, ma tutti noi suoniamo da sempre, da quando siamo piccoli, tutti. Noi suoniamo il piano. E quando sono arrivata qua a cercare qualcuno, un maestro che poteva guidarmi un po' con la mia scarsa lavoro di pianoforte, ho trovato il maestro Marco Cremeschini, ho suonato tipo 3-4 brani per lui così, e a un certo punto mi guarda e mi fa: ma sì, hai bisogno di un maestro, quella di sicuro, però mi piace tanto come canti, facciamo un gruppo. Ah, e di là è nata più o meno Hippie Tendencies. Quindi ti ha preso col pretesto di correggere un attimo il tiro, però poi sapeva già cosa poteva nascere. Esatto. Poi nel 2010 un'altra data importante per voi, subito per svelare tutti i segreti di Hippie Tendencies. cosa c'è? Il 14 febbraio, mi sembra, una data che segna l'amore solitamente. Sì. Però voi come... qual è il significato di questa data per voi? Quando è uscito questo nostro disco di esordio, veramente, è del 2005 che suoniamo insieme, che componiamo, che scriviamo, ma il nostro primo disco è nato, è uscito il 14 febbraio di 2010. Già l'anno scorso. Esatto, già l'anno scorso, siamo nel 2011, quindi l'anno scorso, esatto. Esattamente, appena ho cominciato, ma siamo assolutamente nel 2011. Come è nato, come si è sviluppato le diverse tracce del disco? È stato uno sviluppo pesante o è stato uno sviluppo leggero? Ci sono state delle discussioni musicali per trovare una linea comune? Guarda, per fortuna c'è un grande intesa fra di noi tutti musicalmente, componiamo tutti, non è solo io, ma cioè, tutti fanno la loro parte del processo, e quindi questo secondo me aiuta tanto, è importante che ognuno può dire le sue cose. Certo che qualche litigi in studio, siccome tutti compongono, poi per ma un litigio, sì, che fa crescere, che sviluppa. Certo. Direi che il processo di scrivere i brani, comunque, della linea comune, sono pensieri, osservazioni, riflessioni della vita in cui stiamo vivendo tutti noi. Di conseguenza, sì, facile e difficile allo stesso momento. la critica ha scritto giustamente che non avete un connotato ufficiale, la musica vostra è a 360 gradi, cioè parte, si sviluppa, concede, accresce, tanti riferimenti, tanti input. E così, Lisa? È assolutamente vero, è volutamente così. Assolutamente rifiutiamo, resistiamo di essere etichettata, messa in un scatola che dice questo, che ti che fa la definizione del gruppo. Questa è una cosa. Perché? Perché si deve per forza essere solo una cosa? Perché i critici hanno. I critici, almeno quelli che. È un modo. È un modo per cercare di limitare. Per capire, per capire, giusto? Resistiamo di essere capito, esattamente, esattamente, quello è il motivo, è solo quello. Sì, Flavio, sei d'accordo? C'è anche da ridere, no? Sono d'accordissimo. Vedo distratti di là, sì, siamo distratti. Un attimino distratti perché oltre a far sentire le vostre voci, stiamo cercando di far funzionare le videocamere per concedere ai nostri ascoltatori di potervi anche vedere oltre che sentire. Per cui c'era stato un attimo di distrazione, però ho sentito che comunque. Vi stavate divertendo, cioè. Dico. Allora, la parrucca, se funzionano le videocamere mi devo mettere la parrucca. Sì, certo, no, ma stai benissimo anche così. Ma non poi non lo fai. Io voglio vedere, io lo so che tu a casa ce l'hai le parrucche. Sì, sì. Non l'hai portato stasera. Siamo già a carnevale, quindi lo puoi fare, assolutamente. Vorrei vederti con quello rosa. Beh, insomma. Esatto. Molto bene, vestiti da Teletubbies sarebbe fantastico. Visto che siamo a carnevale. Immagina Gorilla che Teletubbies. Vabbè. Allora, come avranno capito i nostri ascoltatori, stiamo piacevolmente conversando con un gruppo che ci propone la sua musica in questa serata, sono gli Hippie Tendencies. E allora, per capire meglio qual è la musica di cui stiamo parlando, io direi, Maurizio, di partire subito con, sì, con la prima un pezzo traccia. Tratto sì. dal loro disco. Possiamo commentarlo, sì, la prima Lisa, sì. La sì, mi sembra che è Shame on You, è giusto, che abbiamo scelto come prima introduzione, sì. Duro del nostro gruppo. Come posso presentare questo brano? È lo dico sempre, è una societal lament, si dice in inglese, è una lament su società. Ci lamentiamo di tante cose dentro, ma proviamo anche di prenderci in giro noi stessi. Non è che siamo lì a fare la predica a tutte le cose che vanno male nel mondo senza metterci dentro anche noi, perché sarebbe una cosa non molto carina. Quindi proviamo di lamentare delle cose che non vanno nel mondo e anche proporre modi di cambiare queste cose. Shame on you, che vuol dire vergognati. Shame on you. I was taught to keep my big mouth shut. If I ain't got nothing nice to say, but sometimes that philosophy just shame on you gets in the way. How we gonna affect change? How we gonna evolve if we keep our lips zipped? Shame on you. If we don't point our fingers and say that's it, the mantra goes, repetition will sell. Shame on you. So I gotta see Timberlake, Timberland, Timberlake, Timberland, until they are imprinted on my brain. Shame on you. And I'm just saying, there are other musicians who gig after gig after gig after. Shame on you. With so much talent and passion and wit, can't believe that what's on the radio is all that'll fit. Shame on you. Why do I keep hearing the same old shit? Shame, shame, shame, shame. The mainstream media has been selling me thinly veiled greed, and though I'll concede that I can leave my TV shame off on you, they creep into my head, insinuate themselves into my consciousness with intrepid success. Shame on you. Newspapers, magazines, films, books, and internet, it can be hard to avoid, and boy, shame on you. The powers that be over at MTV need to take responsibility. Shame on you. For helping to make lip syncing an art, and believe in your own hype, just the start to selling out. Shame on you. integrity. What are you teaching me? Shame on you. That I gotta consume, or there ain't no more room for me on the planet. That your spoon-fed pap is where it's at. That it's shame true. Shame on you. Teaching me I need to keep my head buried deep, so the status quo will remain in the same insane imbalance. Shame, shame. With the lion's share going to the lion. Those drums sound your horn, let them be forewarned. Shame, shame, shame, shame. Say I can't breathe with this sand up my nose. I need to break free shame, of this ferocious shame, hole. Shame, shame. I need a designer label, like I need to label my songs. Shame, I need to shame, categorize, shame, colonize, dehumanize, shame, sensationalize, demoralize, lobotomize, oversize, terrorize, shame, tyrannize. Shame, I gotta stop to satirize shame, and get to the shame, reprise. I'm gonna try to stop with all this whining. I know no one wants to hear me pining for utopia. Let me just say one more thing. Do we really need all these fear marketeers profiting by scaring me to death? Telling me, if I don't buy this, I'll never ever be cool. If I buy that, then you know I will rule. Get old and die faster if I don't buy this. Never loved, always dissed if I don't buy it. Evolution of humankind is at hand. Can you see it? Can you feel it? Can you smell it? It's right there within our grasp. All we have to do is reach out and grab it. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. E abbiamo ascoltato la prima canzone ad apertura del nostro appuntamento con gli Hippie Tendencies, che sono venuti qui direttamente dal lago di Garda, dalla parte West Coast, come si potrebbe dire. E, è vero, confermi Lisa? Sì, perfetto. Per farci anche per... East Coast. Anche East Coast, c'è qualcuno che viene da Bardolino, mi piace questo paese. I love this town. Yes. Ok, Bardolino, me lo ricordo perché ogni settembre-ottobre vado a prendermi il novello là da quelle parti. Ah, che fa sempre bene. Mi piace molto. Meglio l'amarone. Meglio l'amarone, poi dipende anche da... Novello, sì. E da ragazzini. Sì, sì, è vero. Però si mangia volentieri con le castagne, vabbè. È vero. Allora, stiamo parlando appunto con gli Hippie Tendencies. Ancora un benvenuto a Lisa, Mary Simmons, poi ancora a Marco, Massimo, Cesare e Christian. Sono thank il you. Gruppo. Thank you a lot. Come yeah, si dice. Exactly. Esatto, bene. Yeah. Un bel compito d'inglese. Sì, sei bravissimo. Per chi insomma non l'ha studiato, va bene così. Ok. Proviamoci. Parlando di inglese, sì. Mentre ascoltavamo l'ultimo brano, stavo sì. pensando che sarebbe giusto che dico alle vostre ascoltatori, sì. stavo cercando le parole, che tutta la traduzione in italiano si può trovare di queste canzoni, perché sono tante quelle parole in inglese, effettivamente di seguire per uno che non le interessa tradurli, abbiamo già fatto noi, quindi se vai sul sito della nostra etichetta, che sì. è pentharmusic.com, che è di Brescia, esatto, di Brescia. Bravissimo, esatto. E su, cose divertenti, sai, siete proprio simpaticissimi, grazie Lisa. Su questo sito pentharmusic.com sì. poi potete trovare la traduzione di ogni delle 12 brani su CD. Benissimo. Musicalmente, com'è nato questo pezzo che abbiamo sentito adesso? È venuto a Marco in un sogno. Ed è vero. vero, lui si è svegliato allora, in mezzo della notte, si è andata al pianoforte, ha telefonato per dire la canzone è questa alle tre di notte. Bello, bello, bellissimo. Si è proprio, si è proprio venuto di notte così, lui si è svegliato, è andato in studio, pam pam pam, e la prima cosa che è venuta fuori era Shame on you, e io ho dovuto scrivere intorno a quello alle tre del mattino. Ma no, io non ho cominciato a scrivere. Ah no, scusa, sì. No, no, era lui che lui ha messo giù le sue idee, poi sì, poi, mi è mancato poco che le tre del mattino si mettesse a scrivere. Sì, sì, no, perché succede sempre così tra musicisti. Qualche frase l'ha fatta, l'ha scritta di sicuro. Con una buona intesa. Ah sì, a quel momento, sì, effettivamente. Tutte le imprecazioni sono state scritte alle tre del mattino. Ah, è pieno di imprecazioni questa E poi anche tradotte. Nel frattempo abbiamo sentito vibrare anche la batteria. La batteria di Cesare, e poi avremo modo anche di sentirlo, perché sappiamo che ci sono dei gusti musicali particolarmente interessanti, tipo bossa nova, no? Qualcosa. Ho letto qualcosa di tuo, Vabbè. La gente è preparata. È tutta gente fantastica. Tutta gente preparatissima. E questo per ribadire il concetto di prima, che non c'è un denominatore comune nella vostra musica. Ci sono tanti riferimenti, questo è il motivo. Questa è l'importanza di... E questa è la seconda. Assolutamente, e penso che, come stavo dicendo prima, che tutti noi abbiamo lavorato tanto come musicisti prima di conoscere uno l'altro, abbiamo tutto avuto le nostre esperienze diverse. E quando uno è musicista, l'esperienza che hai fatto dietro ti lascia qualche segno, qualche cosa, e questo porti a altre opere. Se possiamo unire tutte queste diverse esperienze, che cioè io non ho un'esperienza bossa nova, ed è bellissima di avere la possibilità di viverlo attraverso l'esperienza che lui ha già fatto. Perfetto, perfetto. Bene, allora, visto che abbiamo oltre alle persone anche gli strumenti, nonché l'ottima voce di Lisa, l'abbiamo appena ascoltata in questo pezzo, però adesso abbiamo il piacere di ascoltarla anche dal vivo, diamo fiato alle trombe, l'unico strumento che non c'è, cominciamo a sentire qualcosa di vostro. Lisa, cosa ci aspetta adesso? Vi propongo il primo brano scritto dal gruppo, si intitolata Feel No Pain, abbiamo tradotto come Nessun Dolore, è scritto, parla il testo della gioia che ci proviamo di suonare insieme. Bene, allora vediamo l'opportunità e la gioia ancora una volta di suonare insieme gli Hippie Tendencies qui su Blu Radio Veneto. No, forse c'è un problema alla tastiera che non si sente. La sentite? No. Ecco qua, adesso si sente. Vabbè, cambio il suono. Ok, here we go. Y'all ready? You are so fine, baby. So fine, baby. When you walk on down the street, I feel you, hear you call my name. When you walk on down the street, I can feel the pain. When you walk on down the street, show me up just what you mean. When you walk on down the street, baby, every time we meet, I feel my heart begin to beat. You got the medicine I need. There is a way you lay that beat that invades my heart, moves my feet. Go ahead, lay that beat. I feel no pain. Feel no pain. Feel no pain. I feel no pain. Feel no pain. Feel no pain. Got talent to spare, baby. Now my knees get weak with every riff. Time it stops just as still. I can't feel the pain. Where you play amazes me. You make it look like it's easy. Where you bang those ivory keys. I feel no pain. Feel no pain. Feel no pain. I feel no pain. Feel no pain. Feel no pain. Feel no pain. Call my name when you walk on down the street. When you walk on down the street, you show me up just what you made. When you walk down the street, every time we meet, I feel my heart begin to beat. The medicine I need, there's a way you lay that beat, invades my heart, moves my feet. Go ahead and lay that beat. I can't feel the pain, feel no pain. No pain, I feel no pain, feel no pain, feel no pain, I feel no pain, I feel no pain, feel no pain, feel no pain, I feel no, I feel no pain, feel no pain, I feel no pain, feel no pain, feel no pain. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Educazione, insegnanti, alunni. A confronto ogni settimana su Blu Radio Veneto, il sabato alle 12.20. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche il primo appuntamento live con i Hippie Tendencies. Ancora buona serata al gruppo e una buona serata anche ai nostri ascoltatori che ci stanno facendo compagnia, ascoltando la musica dalla radio, ascoltandola anche tramite internet, collegandovi al nostro sito www.bluradioveneto.it e guardando anche le immagini. In questo momento è inquadrato Maurizio Calzavara, il co-conduttore su direttarockwave.tk. benissimo, diciamo che poi cambiamo presto, grazie subito, anche subito. Grazie anche a Chiara che ci sta facendo un'ottima compagnia e si sta dedicando sia alle webcam sia anche alla parte, diciamo, fotografica. Si salutiamo anche Agostino che è ben arrivato, e il nostro direttore artistico che è Alberto Prisco, che grazie a lui siete venuti qua stasera. Ringraziamo Alberto. Una cosa volevo chiederti: ti sei tuffato nell'atmosfera di Brian Ogre sto pezzo? Ah, Brian Oger, quello! A chi hai fatto la domanda, Maurizio? A lui. A me, ovviamente. A Brian Oger, sì, cioè il senso positivo del termine. Sì, Brian Oger e Steve Winwood. Esattamente. Devo dire la verità. Bello, bellissimo. E avete scritto, io ho letto da qualche parte, che questo era un pezzo che non vi era convinto molto. Come mai? Non mi aveva convinto. Cosa dici, Lisa? Ma guarda, devo dire che invece quando abbiamo visto come risponde il pubblico di questo brano, la grinta, feeling. Abbiamo invece deciso che è una cosa che funziona molto bene. Quando abbiamo registrato i brani, questo era l'unico brano che aveva un arrangiamento che non ci convinceva. Quindi tutti gli altri avevano già una forma, una sua strada. Questo brano invece non riusciva a prendere una cosa che ci convinceva, ci convinceva. Insomma, non suonava bene. Poi invece ci siamo impegnati, perché qualche volta ci impegniamo anche noi. Ah, bravi. E allora, detto, siamo o non siamo dei professionisti? Siamo capaci di farlo venire fuori questo brano o no? E allora poi dopo abbiamo in studio, l'abbiamo rielaborato ed è venuto fuori molto bene secondo noi. Una cosa, Flavio, non so se hai notato, sì, secondo me saranno in tutti i pezzi così, è una jam session continua. Loro finiscono come una jam session continua, secondo me. Alla grande, come si fa? Veramente live in tutti i sensi. È lo spirito del gruppo. È lo spirito del gruppo, è così. Sì, ha un'interpretazione, tra virgolette, jazzistica della musica pop. Esattamente. Cioè, i brani sono pop canzoni, però ogni volta i brani sono pop, blues, facciamo prendere un po' una strada diversa. Ma sì, perché voi vi definite proprio gruppo pop, però aperto. Gruppo poppy rock. Poppy rock, bravo. Bello questo. E quindi con all'interno un buon gusto, un mix musicale di grande atmosfera. Guarda, a dire la verità, ci definiscono in tanti modi gli altri, siamo appena stati in America qualche mese fa e quando andavamo a suonare o ci proponevamo nei locali, a volte ci dicevano no, voi siete troppo jazz per noi, altri dicevano no, voi siete troppo blues, quando ci dicevano di no, insomma, almeno, quindi... Comunque c'erano dei brani civetta che veicolavano un attimino anche la scelta dei gestori che poi vi facevano suonare, oppure... Penso che in America quello che suonato in radio Cuvo, che è in radio in Denver, Colorado, di musica più che, principalmente fanno suonare jazz, però loro hanno scelto il brano Time is of the Essence, che possiamo ascoltare quando volete. Qua, e quella era quella, diciamo, più radiofonica per loro, quello e Hippie Tendencies. La che title la faremo track per voi. La fate dal vivo Hippie Tendencies? Adesso, yeah. Ah, sì, esatto. Sto vedendo col basso rotto. Chi mi ha rotto il basso? Beh, sono cose che capitano, il bello della diretta, anche il basso rotto abbiamo, comunque sì, si suona bene comunque, mi pare di capire, con quel basso. Ma c'ho un dito rotto, il basso rotto, adesso manca solo... Siamo rovinati. E finiamola qua, perché... Ragazzi, portare in giro questi quattro ragazzi qua, c'è sempre... Mi sento una mamma, ce l'ho quattro bimbi qua... Deve essere comunque divertente. È divertentissimo. Sono la mia famiglia. Soprattutto con un passeggino a quattro. Esatto. Loro che suonano, tu che li trasporti cantando, Lisa. Bellissimo. Facciamo un cartoon così. Sì, mi sarà, piace molto. Oppure la prossima copertina del disco. Ecco. Ma del prossimo disco, naturalmente. Che siamo già all'opera. Siamo già scrivendo di quando siamo tornati. Eravamo via in settembre. E di quando siamo tornati abbiamo già messo giù 4-5 idee, stiamo già formando le idee, il concetto del prossimo lavoro. Ho capito. Bene, allora adesso Maurizio, cosa diamo? Ancora spazio live? Visto sì, penso che, di sì. Visto che sono caldi, quindi si può partire anche per un altro pezzo live. Lisa, cosa... ci fate ascoltare? Hippie Tendencies, okay. Il brano di cui abbiamo riferito prima, mi sembra giusto farlo adesso. Benissimo, allora Hippie Tendencies. Understand now, oh, we are always on fire, yeah. The dreads, jeans, all the flowers, see the flag declaring our state of mind. I'm setting free my tendencies, and I wanna know, do you feel like joining in with me? We're growing too long, fight to right the wrongs more than anything. See beyond our insistent need. Breathe out in time. I recognize calls for peace are a cliche, but I don't care, and you can't take away my belief in the good and heart of man. I don't ever wanna give up, I'll baby say all gonna be okay. Come on and take a stand. Come on and take a stand. Go on and raise your hand. I'm setting free my hippie tendencies, and I wanna know, do you feel like joining in with me? We'll grow our hair too long, fight to right the wrong. More than anything, see beyond our own insistent need. Breathe out in tolerance. Blu Radio Sera. Ed eccoli qua, sono loro gli Hippie Tendencies, qui su Blu Radio Veneto, all'interno della programmazione musicale Blu Radio Sera. Si stanno divertendo da matti, Maurizio. Sì, sì, anche qua. Prima era una jam session suonata, è una jam session parlata questa qua praticamente. Sì, sì, poi vabbè, bellissimo, bello, mi piace questa. Quando la musica vince, quando la melodia ci regala grandi soddisfazioni. Hippie Tendencies. Fa tristezza solo che non posso vedere te, sai. No, ma adesso vieni di qua con noi. Bene, allora Hippie Tendencies. Questa copertina bella gialla che invita all'acquisto, che poi si apre e si vedono un sacco di belle cose, le mani che si avvicinano. E si la apri e la giri? Sì. Tu lo vedi che adesso è un quadro unico. Abbiamo fatto questo. Lo proviamo. Ma fantastico. Un amico nostro ha fatto un quadro che è di tre pannelle fatto su legno, con delle cose che l'ha trovata, che secondo lui potevo riferire alla nostra musica. Tipo c'è qualcosa dell'astrologia, c'è qualcosa della fisica che è sotto il quadro, si lo vedi? Sì. Molto molto sottile. Sì. E poi questa è la fantasia che lui ha scritto, cioè che ha dipinto mentre ascoltava quello che era allora il demo del disco. Fantastico. Disco. Secondo me non se n'è accorto che c'è un booklet all'interno del CD. Sì, me ne sono accorto. Eccolo qua, ho letto anche i testi, non li ho tradotti. Vabbè, e comunque ci sono anche due figure umane che stanno spiccando un salto. Sono diventate nostro nostro, come si può dire, icon, logo. Il vostro logo. Sì, perché sono così piacevoli. Sì, essere umani, dici, io non so se sono iliani, no? Non saprei. Marco, lo chiami, come lo chiami? Wood and Jack. Wood and come, come la coppia che tutti conosciamo, dei Blues Brothers. Sono degli, in questo caso, Lisa, sono degli hippiani. Esatto. Vogliamo dirlo così. Ecco, esatto. Perché poi quando si salta si dice hippie. Esatto. Vabbè, abbiamo dato anche un nome a questi personaggi della copertina. Comunque, per saperne di più, vogliamo ricordare ancora una volta il sito da dove si possono ricavare maggiori informazioni, oltre a quelle che stiamo già dando in questa trasmissione. Guarda, ci sono tanti siti. Se vai su www.hippietendencies, lo faccio spelling, .com, lì troverai tutti i link di nostri vari siti. Diciamo che quelli più forniti sono Reverb Nation e MySpace, probabilmente. Poi ovviamente il nostro ticchetta. Però se ricordatevi Hippie Tendencies, hippietendencies.com, lì hai il link di tutto e puoi arrivare a tutto. Testi sono su quello del sito di nostro ticchetta, come abbiamo detto prima, Penta Music. E poi ci sono vari siti. Oggi giorno un musicista deve avere 6 siti per lavorare, per essere visibile. Sì. Per essere visibile. Sì, perché poi è sempre il perenne discorso. C'è tanta gente che ha musica da dire, musica da far ascoltare, però ci sono come dire, vari ostacoli nel corso dell'esistenza dei vari progetti. Voi che ostacoli avete incontrato? Come avete fatto a saltarli? Ma una cosa che devo dire che è solo i nostri tempi in cui viviamo, siamo fortunatissime perché diciamo negli anni 80, negli anni 70, se tu non eri in una città grande non eri visibile per niente. E invece appunto questa discussione dell'internet già ci ha fatto andare oltre questo ostacolo e riusciamo a essere più visibile. Altri ostacoli? No, parlo solo io. Cioè, ma dopo facciamo... facciamo no, questo c'era un po' di sarcasmo, c'era un po' di sarcasmo delle Valbusa. Ma non vedi, Lisa, sono estasiati quando parlo. C'è una macchina da spostare. C'è un saluto da parte di Miria da Mantova, la zona di Mantova. Ciao Miria. Poi da Bologna Horizon Band ti saluta, da Max da Bologna. Da Bologna. Ah, di Bologna. E fantastico. Poi da Elisa, la violinista, e da Patrizio da Padova. Ah, oh, ci fa molto, molto tutti piacere. Tutti. Sì. Ecco, ti do il fogliettino. Thank you. Grazie, amici. I'm to think. Salute. Horizon's Band. I've heard of that band. Yeah. E the violinista anche. Ah, ci fa molto piacere che siete ascoltando. Grazie tantissimo per i saluti e ricambiamo. Dobbiamo dire una cosa: oltre ai quattro base della formazione, c'è anche Cristian. Cristian è importante nel vostro disco perché è il fonico, cioè che ha creato le cose più necessarie per praticamente l'incisione dell'album, vero Cristian? Si sente? Sì, prova a parlare. Aspetta, che prova, sai. Sì, loro sono venuti nello studio dove io lavoro. Quando ancora io non facevo parte del gruppo, sono entrato poi come chitarrista. Sì, abbiamo fatto questa grandissima amicizia attraverso il lavoro. Lui è molto, molto, molto preparato in quello che fa. Ha ascoltato mille volte i brani, quindi li aveva già imparati. Molto semplice. Quindi era pronto per inserirlo nel gruppo. Perché il gruppo vostro è un gruppo aperto, giustamente, oltre ai quattro, Cristian qui presente. Sì. Diciamo, ci sono altra gente. Diciamo che la base è noi cinque. Sì. Questa è la base di Hippie Tendencies, cinque. Però sul disco ci sono bel 14 musicisti che suonano e andiamo fuori anche a suonare con un'altra formazione di 7, aggiungendo Eva Show, che è un bravissima musicista, violoncinista. Si dice così? Sì, sì, giusto. È chitarrista e è un bravissimo cantante, quindi lei si aggiunge con noi e facciamo un paio di brani con il suo violoncello molto volentieri. E poi quando andiamo in sette troviamo normalmente un altro chitarrista, con un chitarra elettrica normalmente, quindi o Simone Boffa o Simone Guiducci sono l'altro elemento che quando usciamo in sette. In sette, quindi... musicalmente, quando abbiamo presentato il CD eravamo in 14. Super. Perfetto, bellissimo. In sette, come gestiste il discorso musicale in sette? ma il maestro lì, Cameschini. Guarda, durante la presentazione del CD eravamo in 12 sul palco. Oh, pensavo che c'erano tutti, 12, perché c'ero 12. Io, c'era un altro organista. Le mogli, c'erano... C'erano tutti i coristi. E se andate su YouTube vedete delle parti del concerto che abbiamo fatto il 14 febbraio. Vedete che era gestibilissimo. Questo è uno spirito west coastiano, posso Bravo. Dire questo? Uno spirito west coastiano, cioè degli anni, fine anni 60. Hippie, esatto. Quindi west coastiano, appunto, hippie. È quello proprio così. Vedi Maurizio spirito. Che pian pianino abbiamo capito, senza chiederlo direttamente, ecco. Qual è il significato del nome esatto. Hippie Tendencies. È vero. Sì. Tendenze hippie. Infatti quando siamo andati in Colorado praticamente abbiamo scoperto che eravamo a casa nostra, perché ci sono ancora dei gruppi hippie insediati nella città di Boulder e ci hanno accolto come se fossimo dei fratelli. Bellissimo. Siamo andati a suonare in un posto che ha un nome meraviglioso, che è Loveland, Colorado, la terra di amore. Neverland, oh sì, quello è un altro, Netherland, quello è un altro posto, è vero. Netherland, Colorado, che era veramente come tornare indietro e andare negli anni 60, vi giuro. Anche lì, se vai su Facebook, puoi vedere un po' di foto del nostro tour americana, e lì puoi vedere dei personaggi che girava la strada di Netherland, Colorado, che vivono di un altro tempo. Simpaticissimi, molto aperti. Sì, Hippie Tendencies, le piacciamo il nome, non per la referenza al droghe e il resto delle cose che si può venire in mente, ma più per l'idea di una società utopistica. Esatto, sì. thank you. Un posto dove, cioè, l'idea è che noi crediamo veramente in cambiamenti reali e non pensiamo che è solo una fantasia, no? So Hippie Tendencies, i hippies e le beatniks degli anni 60 avevano un'idea che potevano cambiare il mondo, e questo è favoloso, è una cosa che aggrappiamo di questa speranza. Invece poi capivano che potevano cambiare solo loro stessi, ma il mondo purtroppo era già era già programmato in altra forma. Vabbè, Impossible è una traccia, la numero 7 del vostro disco, che adesso andiamo ad ascoltare. Mm-hmm. Un breve commentino su questa. Questo tocca a te per forza. Impossible, questo è un testo che ho scritto alla fine di un rapporto, parla di un uomo impossibile. L'ha scritto alle 3 di notte anche questo. Perché era così impossibile che non riusciva a dormire. No, era un rapporto perché russava troppo. Impossible. Era una cosa un momento difficile che ho vissuto la fine, cioè, sai, quando vai verso la fine dei rapporti son dolorosi e parla un po' di queste cose qua. Va bene, allora non commuoverti ascoltandolo, mi raccomando. Ormai. Vabbè, e noi andiamo ad ascoltare insieme qui su Blu Radio Veneto. He is impossible to please. If I stay home, he wants to be alone. If I'm out late, he's jealous and looks a lot like hate. I see up, it clearly is down. If I see red, it's obviously blue. He say, God damn you, you sure are a fool. Look at me when I am speaking to you. He say, listen up, girl, you're weak and you're small. Do what I say, I love you anyway. Get on your knees, beg for your life. Are you all, aren't you my wife? Sacrifice for me, all that you are. Isn't that what you're here for? He is impossible to please. If I stay home, he wants to be alone. If I'm out late, he's jealous and looks a lot like mind games, playing with my heart. Down on my knees, praying I did it right. Or I know I ain't sleeping tonight. Listen to him curse me, thinking, is this what but it's all your fault. You drove me to it. You made me do it. Hate is impossible. Hate is impossible. Hate is impossible. Ooh. Hate is impossible to please. If I stay home, he wants to be alone. If I out late, his jealousy looks a lot like mind games. He is impossible. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato gli Happy Tendencies con questa canzone che si intitola Impossible, però voglio dire un impossible possible, voglio dire in questo caso. Un impossible che è diventato possible. Mm. Yes. Bene, allora abbiamo capito come è nata questa canzone davvero, davvero particolare, quindi soffrire d'amore fa anche bene. Sì, suppongo di, per qualcuno che scrive, sì. Sì, sì. No, sai, con quella canzone era importante per me di non fare una cosa proprio lamentoso, pesante, e senti che comunque è frizzante, sì, certo, nonostante certo. Il fatto, il contrasto fra le parole e questo feeling, penso che è molto efficace. Bene, no, confermiamo. Arriva adesso quella lamentosa. Ecco, perché la suoniamo noi. La stiamo temendo in questo momento. Vabbè. È vero, Max. In tutti i pezzi del disco c'è una particolare, c'è un filo denominatore, è il feeling. C'è molto feeling in tutti i pezzi, c'è poco da fare, c'è molto trasporto, c'è l'anima. Te lo senti questo, io in questa stanza? Io lo sento, adesso lo con in noi. Questa stanza, ecco. L'ho sentito nel disco, c'è quello. L'anima, c'è il feeling, cioè, è importante quello, è fondamentale. Tiene uniti tutti le diverse tracce dell'album, a mio parere, l'ho sentito così. Questo è un grande complimento, ti ringrazio tanto. È una bella cosa. Sì, perché gruppo, voi avete questa particolarità, fate gruppo, ma fate gruppo musicalmente parlando, cioè date, cercate di dare molto qualcosa al di fuori, al di là delle tracce del disco. Assolutamente, cioè musica e comunicazione. Io quando scrivo specialmente, penso, io ho avuto un'infanzia diciamo leggermente difficile, non entriamo in quello, però una delle cose che mi ha salvata spesso o che mi ha fatto sentire meno sola era quando potevo accendere la mia radio da solo di notte nella mia stanza e sentire quelle canzoni che parlavano a me, che mi diceva no, non sei solo, c'è qualcun altro che è successo questa cosa. Quindi quando io scrivo spesso sto pensando di quelle persone che sono ascoltando la radio, certo, adesso, o che vengono ai nostri concerti, e di dare comfort o di essere un altro specchio che può riflettere per loro i loro sentimenti. E tutti noi penso che vogliamo comunicare, vogliamo I think music is love, you know, it's true. Okay. Molto bene. Allora, visto che abbiamo parlato di radio, quindi alla radio non si ascoltano solo gli Happy Tendencies, ma si ascoltano anche altri gruppi, altri brani, altre canzoni che hanno formato poi la nostra, ognuno la nostra testa musicalmente parlando. Allora, vogliamo scoprire un attimino quelli che sono i vostri gusti musicali, partendo, facendo proprio i nomi di quelle che sono... Siamo qua tutta la notte, non usciamo più. No, facendo... una testa, dai. Ne bastano solo anche... Solo uno? Io non posso fare solo uno. Chi? Facciamo tre a testa, eh? Ce la fate tre a testa? La cosiddetta domanda sull'isola deserta, i tre dischi da portare sull'isola deserta? Oh, è troppo difficile. Joan Armour Trading. Quale di Joan Armour Trading? Quale disco? Dove anche scegliere quale? No. Diventa troppo, siamo qua veramente. Te lo dico solo artisti che può essere considerato. Vediamo, Joan Armour Trading. Che mi ha fatto una grande influenza da sempre, Ricky Lee Jones, Annie DiFranco, Cassandra Wilson, Nina Simone. Io vado finché qualcuno mi dice ok, vabbè, basta. Marco? Johnny Mitchell su tutti, James Taylor, e mettiamoci certo. E Johnny Mitchell. Sempre Johnny Mitchell. sei molto contenuto, bravissimo. Cesare, Valbusa? Cosa rispondo io adesso? Cioè, no. John Coltrane all'inizio. John Coltrane dopo Weather Report. Vado un po' pensando alle... Alle origini. Weather Report e... Chick Corea... Ci sta bene in ogni caso. E Cesare, visto che sei il batterista... batteristi appunto, Steve Gadd. Steve Gadd... Bill Cobham, ad esempio, Peter Erskine, Max Roach, Elvin Jones, ce ne sono parecchi, ma insomma. Ci sono troppi, cioè, caspita, assolutamente. È difficile dare una. Vediamo a Cristiano. Cristiano, scusami. No, ci piace, Captain, Cristiano we ci like piace. To call him, noi le piace chiamarlo Captain Thunderbolt. Everybody in the name has a band. Ogni membro di questo gruppo ha un nome. Che l'ho dato io. Ok, Christian, sorry. No, allora, io col mio lavoro, ascolto veramente di tutto, quindi vi posso dire quello che adesso sto ascoltando, sì. Che mi sta piacendo. Sto ascoltando un disco di Jamie Cullum. I like Jamie a lot. Sì, la traccia. Me l'hai detto tu, sei presente? Qual è? Come no, si chiama? No. Comunque me l'ha detto Massimo. Però ascolto anche musica, diciamo, adesso sto ascoltando anche della roba di Radiohead, perché mi interessa per capire delle cose sul sound. Quindi Tom York Head. Company, insomma, praticamente. Ecco. Ma Tom York, quello da solista o Tom York col gruppo? Gruppo. Col gruppo, perfetto. Dischi più vecchi. Sì. Anche sì, musicalmente parlando hanno fatto un disco molto interessante, che è l'ultimo, che è un po' ritorno al passato, sì, secondo me. È stato leggermente, esatto, leggermente un ritorno al passato interessante, infatti. Sì, esattamente. Anche Vasco ha fatto un ritorno al passato, non ha fatto proprio bene secondo me. Ok, ma Liffano l'ha fatto. Qual è la tua terza? Mio terzo, ma no, passa gli Epitennis. Ah, ecco, giusto. Grazie. È questo che l'abbiamo preso nella mi pare giusto. Tocca a te adesso, maestro. Anch'io mi rifaccio al passato, che però comunque è sempre presente. Sono tutti vecchi. Frank Zappa. Gruppo. Sei Zappiano convinto. Parla per te. Vado a un altro morto, estremo e dico Eric Satie. Ah, Eric Satie, ecco. Oh, certo. E un altro estremo è Bob Marley. Perfetto. Quindi morti. Abbiamo fatto i quattro Bob punti Marley. Cardinali della Bob della Marley musica. Ma questo è il mio nuovo. E che è successo a Bill Evans? Che è successo a Horace Silver? Sì, vabbè. Sì, l'ho messo per te, sai. Dove così io lo so che puoi solo dire tre. Io ascolto James Taylor. Io ascolto lo Zecchino d'Oro tutti i giorni. Beh, dava ottimi spunti anche lo Zecchino d'Oro a quel tempo, no? Quindi. Sì, certo. Io ho il pulcino ballerino a casa, ecco, tanto per parlare con lo sapevo di non dire questa cosa. Fantastico. Mandare in vacca ogni sì. Discussione seria. Comunque l'importante è questo: parlare di tutto e di niente, ma soprattutto ascoltare dell'ottima musica, quella che voi proponete, Hippie Tendencies. Allora adesso vi propongo, facciamo una breve pausa pubblicitaria, il tempo che prendiate mano agli strumenti, e poi ritorniamo in diretta ascoltando un'altra vostra canzone. A tra poco. We'll be right back. spot. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura. La strada e i viaggiatori. Il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali. Ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. Sulle frequenze in blu. Allora direi che possiamo procedere con il pezzo che abbiamo promesso ai nostri ascoltatori. Quindi ecco qua, Hippie Tendencies per voi qui su Blu Radio Veneto. Ok, I'll just quickly vi dirò velocemente che cosa facciamo. Primo ho detto Impossible è bella perché non è peloso, canzone pesante di amore, ed è solo faccio quello. Ok, e sempre parlo sempre dell'uomo impossibile in un'altra veste. Questo brano è frutto della mente di Massimo Saviola, era un'idea Sono sua. E lui mi ha no, non che riferisce a lui. Però lui l'ha scritto questa melodia, l'idea era interamente, quasi interamente suo, e l'ha scritto con già in nome le parole Skyline, che ho lasciato dentro, l'ho trovata perfetta, e Skyline è la linea dell'orizzonte, la forma degli edifici, sì. Is that giusto? Sì. Ok, ecco, e quindi Skyline. Eccolo qua, Skyline. Still night sets on, try to make it right when all it feels is wrong. I don't wanna live my life as one big compromise. You can't sleep at night and I just wanna go anywhere I can be free to be alone, away from your pulling and pushing at me constantly. So hop on that train and reinvent the skyline. Get in my car and drive. To be up on that train I see calling out of me. Get in my car and leave. Every time I try to walk on out that door, words hold me here, and what was once so clean blood into what you mean, what you hope to be dear. I loved you too all long and true, and this hurts so much leaving you. But we've come on. Skyline, get in my car and drive. Don't even have to be up on that train. I see calling out at me. Get in my car and leave. Astonished by my chill, you can't swallow this pill. Did you think I would always bow it away? E abbiamo dato anche un senso infinito a quello che è questo skyline interpretato dagli Hippie Tendencies. Ancora buona serata, cari ascoltatori, all'interno di Blu Radio Sera, questo appuntamento live assieme a Flavio Bilato e Maurizio Calzavare, appunto gli Hippie Tendencies, che sono venuti a trovarci questa sera a proporci questa musica davvero formidabile. Grazie Elisa, grazie Marco, grazie Massimo, grazie Cesare, grazie Cristian. Ma che dolce che siete, veramente. Ah, siamo sweet. You are, you're very sweet. Very kind and sweet. Oh, it's a love fest. Questo pezzo, secondo me, ha una prerogativa. Ricorda, riprende, si collega idealmente alla psichedelia fine anni 60. È un po' psichedelico, secondo me. Ha qualche connotato. Interessante. Che ritorna a quel momento là. Poi una cosa interessante che voi avete detto in intervista, e questo secondo pezzo, questo è un pezzo che fa piacere, che piace alla gente, a mio parere. Proviamo a suonare il pezzo, proviamo a suonarlo in giro, la forza di una buona canzone la si percepisce fino quasi in fondo, immediatamente. La gente la sente la bella canzone. Questo è un grande pezzo, un po' complicato musicalmente parlando, composto da tanti elementi, da tanti momenti, da tanti flash, però un grande pezzo che fa ascoltare, la gente sta ferma e ascolta un pezzo simile. È una specie di mini suite, possiamo dire anche questo. Yeah, questo è molto concetto interessante. Anni 70, esatto. Anni, se parlo sempre di quello. Parlo suite. È una mini suite perché già il nome è vostro, però il concetto si collega anche al nome. Perché no? Certo. Io l'ho sentita così a me. Ah, cosa interessante hai detto. Molto. È originale, non... la tua veduta sui nostri brani è molto interessante, sì, è molto pensata, e si vede che l'hai ascoltata, si allontanava bene. Volutamente dagli altri, ma è voluta questa allontananza dagli certo. altri, che bisogna sperimentare, bisogna cercare, bisogna trovare sempre delle novità. E sono stra d'accordo con questo, assolutamente okay. vero, assolutamente vero. Bene, da qualche parte leggevo che a qualcuno piace anche Thelonious Monk, che in un certo senso è stato quello che ha dato un taglio al jazz, il proprio taglio, tanto per non essere troppo jazz, ma per avvicinarsi anche un po' al pop, pur non rispettando certi confini e parametri che vengono dati classicamente al jazz. Chi risponde come tecnico jazzista? Vedo che tutti guardano me. Sono tutti sei tu Marco. Marco guarda per terra, quello è il bello. Sì. Noi guardiamo Marco e lui guarda per terra. Però non ho capito la domanda. No, scusami. si parlava di Thelonious Monk, no? Da qualche parte leggevo che piace. E quindi questo Thelonious Monk, che è stato un po' un ricostruttore del jazz, no? Beh, Thelonious Monk sì, è stato un personaggio assolutamente originale, che diciamo che ha avuto questa proprietà di, nella sua pazzia, come tutti i grandi geni era anche pazzo. Sì, giusto. E probabilmente come ha fatto un Vincent Van Gogh, che si è reinventato, che ha cambiato completamente gli stilemi di un certo modo di dipingere, l'ha fatto con la musica. Certo, come ti senti legato a lui? Forse non c'è un ritorno di cuffia? Sì, non ti sento. Oh, alzo le mie. No, siamo legati a lui come a tantissimi altri grandissimi musicisti, nel senso anche Cesare Abusa stava appunto dicendo, anche lui che chiunque ami la buona musica, chiunque ami il jazz, non può non amare anche un pazzo scatenato come Thelonious Monk. Sì, certo. Nonostante che quando era in vita tutti lo evitavano e tutti avevano paura un po' di lui, di non si sapeva quello che poteva succedere, eppure ha lasciato delle cose indimenticabili, che vorrei dire, come anche lì, come in tutti i grandi artisti, sì, lui suonava nel jazz, le incisioni che ha fatto, i dischi sono usciti come il jazz, però se si va a prendere la sua musica, a collocarla in altri rifarla, diciamo così, in un altro modo, si sente che è musica che potrebbe essere pop, potrebbe essere rock, potrebbe essere pop rock. Certo. Allora, Thelonious Monk wrote poppy rock. That was his genre. Allora, ascoltiamo un altro pezzo del vostro disco, la traccia numero 4, mi sembra Open Letter. Open Letter, questa lettera aperta. Ce l'abbiamo scritta la lettera aperta. Qua c'è jazz dentro però, Lisa. C'è molto jazz qua. Thelonious. C'è il jazz. Punto. Open Letter è molto molto difficile definire questa canzone con poche parole. È una Open Letter già definisce che cos'è la canzone. Open. Una lettera aperta. Sì, a chi? A chi? A Dio. È una lettera aperta a Dio, chiedendo perché lui non se esiste, perché non si presenta e aiuta un po' questo mondo. È una sfida. È come a Dio. Una preghiera, insomma. Sì, kind of. Allora l'ascoltiamo qui dagli studi di Blue Radio Veneto assieme agli Happy Tendencies. Ci ascoltiamo questa Open Letter. Why won't you come out? Show your face to me. Reveal your mystery. Why don't you come out? If you're there at all, if you care at all, why won't you come out and show your face? Self-proclaimed prophets lie in their pockets in your name. Cheap kill I made. Grabbing profit power, they all seem the same. Promising eternity when I am dead. All I gotta do is what God said. Defined by them, cowards hide behind a lie. Transparently taking of us. Oh, they mock our trust and profit when we ain't had no luck, trying to convince us that theirs is God's will. Leave me out of any organized conformity designed to bring me to heel, making sure I don't bite the hand that feeds me, promising eternity when I am dead. All I gotta do is what God said. Defined by them, cowards hide behind a lie, transparently taking advantage of us. Oh, they mock our trust and profit when we ain't had no luck, trying to convince me that theirs is your will. Thank you. crushed all of us beneath that noxious need for a rush. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora insieme, sono le 22:18 minuti primi qui su Blu Radio Veneto, una concessione che ci fanno dalla direzione di andare avanti un 15 minuti ancora fino alle 22:45, quindi facciamo uno strappo alla regola e ascoltiamo ancora dell'ottima musica degli Hippie Tendencies, che sono venuti a trovarci qui per proporci questa loro musica. L'abbiamo apprezzata anche con questa Open Letter, davvero davvero fantastica, quindi una jazz radio abbiamo ascoltato. Sì, c'era del jazz, come giustamente ha detto. È vero, tutti dicono questo di Open Letter, che si sente quell'influenza tanto. Ma è un jazz velutato oppure un jazz un po' più pesante? Questo le lascio rispondere a Marco. Al maestro, esatto. La canzone era una ballad, quindi... poi ripete cosa hai detto. È delicato. Ecco, delicato. Questo era Massimo, era al Massimo. Basso. Okay. The Mountain Man. The Mountain Man. Yes, proprio. We call him the Mountain Man. Sì. Lo pensavo più in una hill, però visto che... però visto che tu dici mountain, vabbè. Dopo ti faccio vedere. Vabbè, perché sto Massimo! Parlando perché è seduto. Vabbè, ne approfittiamo per ricordare anche i nostri ascoltatori che è possibile vedere i nostri bei faccioni collegandovi su internet, diretta rockwave.tk, questo è il nostro sito. TK. E poi dove TK? Viene TK? Guarda, non chiedermelo, penso un Tagikistan o esatto. Qualcosa del genere, quindi è uno di quei siti liberi, quelli, no? Quelli che chiudono per sì, certo, no, abbiamo dovuto sostituirlo ogni giorno. No, non è collegato con Wikileaks, comunque. In questo caso no. Ecco, poi abbiamo alle telecamere, anzi alle webcam, come vengono chiamate adesso anche in Italia, abbiamo la nostra Chiara, che poi vi ha fatto anche qualche foto che vedremo anche sui nostri siti. Brava Chiara. Maestro, mi puoi dire, abbiamo già parlato prima come è nato il pezzo, però musicalmente come l'hai sistemato? Come l'avete sistemato? Come l'avete messo in musica praticamente? Open Letter. Sempre proprio questo. Open Letter, sì. Questa era la melodia mia. Sì, è la tua melodia. Il brano l'ha scritto interamente Lisa. Questo verso le 5 ormai era già. 5 di mattina. Gli altri. No, questo era uno pomeridiale, mi sa. Ed era come tutti i brani che scrive lei, tanti li ha scritti proprio, sono idee sue. Proprio dal principio, sia musicali che ovviamente i testi. Poi le prendo in mano io, come dice sempre lei, e cambio gli accordi. È irritante perché io lo suono, no? Io comincio e lo scrivo sulla mia tastiera, al piano, le canzoni, poi lo passa a lui, mi dà indietro e non sono più capace. Dopo lui le passa a noi e facciamo un'altra cosa. E facciamo un'altra cosa, esatto. Io sono rovinata. Lisa, tu dici, ma che canzone era questa? Sì, esatto. No. Che non la conosco più. E le cene, Lisa, ho letto un'altra cosa. Fra una cena e l'altra, cosa vuol dire? Con il discorso di una cena e l'altra. Ho letto perché tutto, proprio questo, tutto, perché si mangia, ecco il perché di Mountain. Tra una cena e l'altra, com'è il discorso della cena e l'altra? Marco e io le piace molto fare la cena, però comunque c'era un'altra domanda, stavo parlando di Open Letter. Sì. focus Open Letter, la chitarra di Simone Guiducci, molto bravo. Sì, difatti Simone Guiducci, che è un grandissimo chitarrista jazz di Mantova, di Castiglione. E lui ha collaborato con noi per buona parte delle parti, cioè soprattutto la parte delle chitarre acustiche e in questo caso anche della chitarra jazz di questo brano. Massimo, che ha suonato il contrabbasso, se non sbaglio, mi sembra in questo brano. Non ci vuol giurare, ma non lo so, se c'ero dormivo. Lui ha preso una connotazione jazzistica anche per l'uso della strumentazione, diciamo. Certo, non certo. È un brano jazz, ma ha sicuramente una connotazione, una strumentazione jazz, con anche un bel richiamo, un piccolo richiamo al gospel. Esatto, sì, c'era un richiamo al gospel, è verissimo questo. Un veluto anche quello. La parte finale, dove i cori, molti dei cori di questo brano, la parte finale, sono stati proprio quasi improvvisati da Betty Vittori, che è una delle più grandi coriste italiane, che ha collaborato in molti dei nostri cori. Ho capito. E ha, diciamo, aiutato proprio nell'arrangiamento dei cori. Perfetto, quindi, quindi la stesura del pezzo è costruito pezzo per... Oh sì, giustamente astratti, è giusto far così, ci fa un po' alla volta, come le cipolle. Si vede come sì. a volte così, non come sempre. Come diceva prima, il Shame on You che ho sognato di notte, avevo sognato proprio interamente dall'inizio alla fine. Questa volta invece si cresce piano piano. Okay, okay. Dipende dal brano. A volte si arriva a un certo punto, si rifà completamente. Ma fa parte del processo. Del processo del musicista, cioè è vero. Pezzo ok, pezzo non ok, si trova un assieme poi chiaramente. Certo. Okay, allora Claudio, considerando che questo è un appuntamento live dove ci sono degli ascoltatori che stanno ascoltando e qualcuno sta anche vedendo, confermato dalle webcam che sono attive e dal sito che si vede che li salutiamo e li ringraziamo. Benissimo. Per la pazienza. Ascoltano e ringraziano, fanno cenno con la testina anche loro. Tipo i cagnolini che si mettono dietro le automobili, ecco. Cesare sta imitando molto bene la cosa. No, voglio dire, considerato che questo è un appuntamento live, quali sono i prossimi vostri appuntamenti live, quelli classici, quindi on stage? Ok, the cantina dell'arena. What is the date of that? L'11 di febbraio. È un bel posto a Verona. Non è neanche lontano, potete venire. Siete tutti invitati. Certo, da Padova sono 90 km, poi ognuno fa i propri conti dalla propria casa. Bene. Comunque, alla cantina dell'arena, allora si chiama così. In Piazza Brando. Esatto. E in Verona. Sì, mi sa che questa è la prossima cosa che siamo. Siamo in fase di scritture. Adesso stiamo lavorando tanto sullo scrivere i brani, però man mano che viene fuori la data si può sempre vedere su tutti i nostri siti di Reverb Nation, MySpace, Facebook e tutto il resto. E le nuove i nuovi pezzi, Lisa, che state componendo e state scrivendo, continuano il discorso di questo disco o cambiano, trovano qualche altro sistema, qualche altra apertura? Guarda, per il momento scriviamo e poi, come abbiamo fatto con l'altro disco, vediamo un po' che cosa abbiamo quando abbiamo un po' un piccolo montagna di canzoni, di canzoni. E troviamo le file una volta che le abbiamo in mano. Direi che comunque è molto la direzione che già abbiamo preso con questo. Okay, sì, okay. Assolutamente, cioè quello che mi sento fino adesso. Forse ne facciamo uno dopo. Una nuova new entry, allora perfetto, yeah. Per noi, yes. Siamo molto contenti di questo. Dobbiamo assolutamente registrarlo, Maurizio. È già depositata. Bene. Perfetto. Allora, non lo sappiamo neanche noi. Sì, sarà un po' improvvisati. È proprio James. Però sì, si deve sfidare se stesso. Fa parte un po' anche dello spirito jazz, quello di fare di primo taglio, voglio dire, la canzone. Bene, allora Maurizio, visto che siamo liberi, sì, fino alle 22:45 noi facciamo ascoltare un po' di musica, quella live proposta dagli Hippie Tendencies, qualche canzone con soluzione di continuità e poi ci risentiamo, ci ritroviamo per i saluti. Cosa ne pensate voi? Ok, excellent. Quindi facciamo tutti sì, fila, esattamente. Ok, perfetto, vi le dico le titoli. Anche mettiamo dentro un cover. Ho nominato prima Annie DiFranco, che è una cantautrice americana che mi piace veramente tanto. Anche a me. È veramente dotata. Mi piace molto la poesia delle sue parole. E questa canzone che facciamo sua, che si chiama Buildings and Bridges, e la facciamo spesso, anche live, perché ci piace molto la metafora che è dentro. Lei usa l'idea che l'essere umano è come un, o dovrebbe essere come un graticello o un ponte che è costruita di piegarsi con il vento, e mi piace da morire questa metafora, quindi faremo quello e poi facciamo qualcosa di nuovo. Ci siete? Sì, ok, facciamo un brano ispirato del nostro viaggio in America che si chiama Gigging Around, che è nuovo nuovo, sarà la prima volta che qualcuno lo senti, quindi sono emozionata. Per noi assolutamente siamo più emozionati noi, perché sappiamo che è la prima volta che si propone così on air, allora in Italia, in Italia sì, oh sì, è vero, in Italia a Padova, soprattutto a Padova qua in questo stand-up a Blue Radio e poi finiamo con Poppy Rock. Ok, benissimo, ecco qua Hippie Tendencies per voi su Blue Radio Veneto. Are made to bend in the wind, to withstand the world, that's what it takes. All that steel and stone are no match for the air, my friends. What doesn't bend breaks, what doesn't bend breaks, doesn't bend breaks. La da da da da da da, la da da da da da, la da da da da da da, la da da da da da. Scar into a joke, and we are made to fight and fuck and talk and fight again and sit around and laugh until we choke. Yeah, sit around and laugh until we choke. La da da da da da, la da da da da, la da da da da da, la da da da da, la da da da da da, la da da da da. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Some bitch who does not budge with eyes the size of snow. I may get pissed off sometimes, but you seem like the type to hold a grudge. In the end, I just let it go. In the end, I just let it go. La da da da da da, la da da da da, la da da da da da, la da da da da da. La de la de la ta ta, a la de la de la, a la de la de la, a la de la de la ta ta ta ta ta ta, la de la de, a la de la de la ta ta ta ta. La de la de, la de la de, la de la de la ta ta ta ta. That was thank you. Possiamo fare anche un applauso. Buildings and Bridges. Visto che siamo alright, new song. Ma così senza neanche un basta neanche un bicchiere di salame, un affettato, no, niente, solo acqua, purtroppo solo acqua, nessuna introduzione. Abbiamo già detto una nuova canzone ispirata del viaggio americana. Che tua età è? La migliore. La migliore. La migliore. Just like a train traveling on the rails, we go on. Building speed, carried along by our hearts and our songs, we go on rapidly. And even if it sometimes may seem we got our heads lost in a dream, we go gigging around out late on the town, we go on merrily. Ain't got no time for no mess, trust me, we are obsessed. No miracle, we made it at all, though we may drop the ball. For now we're gonna go it on. Got no time for no mess, trust me, we are obsessed. No miracle, we made it at all, though we may drop the ball. For now we're gonna go it all. Keep passing, go, keep on doing our show, we go on happily, giving our all. Listen, when we go on determinedly, and even if it sometimes may seem we got our heads lost in a dream, we go geeking around out late on the town, we go on merrily. Potete chiamare anche da casa, improvvisare anche voi. Gigging around that I late on the town we go on. You know we go on, we know we go on. Gigging around that I late on the town we go on. Merrily. Thank you. All right, just the last song, l'ultimo brano. Poppy rock. Thank you. long enough so I can say, well, this box they put me in keep driving me insane. No, I don't care to label it a night. Why can't I just be rock, jazz, folk, soul, be poppy rock, jazz, folk, soul, be poppy rock, jazz, folk, soul, be poppy rock, jazz, folk, soul, be poppy rock, jazz, folk, soul, be as in popular jazz, as in sophisticated and blues. That's how I'm keeping it real. Did you just say I sound like Marvin Gaye? Are you out your mind to pressure me that way? It's all subjective if you ask me. What you hear is what you get. Why don't you revel in it? Poppy rock, jazz folk so beat. Poppy rock, jazz folk so beat. Poppy rock, jazz folk so beat. Poppy rock, jazz folk so beat. Sophisticated and blues. That's how I'm keeping it real. I bet you are thinking I've done too much drinking and my wildness is causing all sorts of talk, all sorts of problems. Some truth in what you're saying. I always been outraged. Pop as in popular, jazz as in sophisticated and blues. That's how I'm keeping it real. Too much drinking and my wildness is causing all sorts of talk, all sorts of problems. Some truth in what you're saying. I've always been outraging. I'll sharpen my tongue on anyone that pushes my buttons. Pop as in popular, jazz as in sophisticated and blues. That's how I'm keeping it real. Pop rock. Now, yeah, it's 10:41 and 39 seconds, 40 seconds. Forse l'ascoltatore di Blue Radio le piacerebbe sentire che quando noi suoniamo, proviamo a suonare un po' di tutto, veramente. Se io chiedo ai ragazzi qua di fare un po' di tipo reggae con questa canzone. Rock. Invece, ragazzi, if I want to hear a little bit of, I don't know, some bossa nova, could you play that for me, baby? Okay, that was good. I'd love to hear a little bit of funk. Can you make it funky for me, Cesare? Papa. Father Rock. Are you want to do something more? Father Rock. Non sono finiti, ragazzi. Devo darvi altro genere. Io direi, what do you think? What do you want to say? What should we have them do? Rock. We want to hear some rock, hard rock. Poppy rock. Che schifo. Poppy rock. Non capisci niente. Poppy rock. Poppy rock. Poppy rock. Poppy rock. All right. Father Rock. You know, we don't like to be put into any kind of box. We like to play whatever it is we want to play. We will play it all. We'll play every genre. We don't care what it is as long as it's good. There's only one kind of music for us. Just one kind. And that's the good kind. Father Rock. Bravissimi, bravissimi. Dovevamo tirare. Thank you. Bravissimi. So much for having us. Oh, it's done. Okay. Oh, volevo ringraziare. Vabbè, allora salutiamo gli Happy Tendencies, salutiamo yes. Lisa, ringraziamo Marco, ancora veramente Massimo. Grazie a voi. Cesare, Christian. Oh. Grazie di essere stati grazie. Qui con noi, di averci allietato in questa serata, di averci fatto conoscere la vostra musica. E una promessa, vi strappiamo una promessa, ritornare qua molto presto quando ci sarà quel nuovo disco di cui abbiamo parlato così tra le righe. Volentierissimo, con gente come voi, gentile, disponibile e con tanta conoscenza musicale, torniamo sempre volentieri. Benissimo, grazie. Allora Maurizio, l'appuntamento per quando? Domani. Domani sera. Abbiamo allora... un cantautore, domani un cantautore con una band interessante, un altro genere, però noi a Rock Wave sviluppiamo tanti generi, perché è giusto che sia così. La musica al di sopra di tutti i generi. Quindi poppy rock, come dicevano poppy prima. Rock. Presentando una radio poppy rock. Una radio poppy rock. Benissimo, allora noi ci salutiamo, però prima, siccome faremo ascoltare un altro brano dal vostro disco, per chiudere in bellezza, diamo spazio anche a quella che è la traccia numero 9, quindi è Time is of essence. Is of the essence. Time is of the essence. Bene. Parla del fatto che il tempo scivola via, no? E infatti proprio a questo momento è così. E parla anche della strana qualità del tempo, che quando stai facendo qualcosa che ami di fare, ovviamente vola, e come è volata questo tempo con voi, e invece quando stai facendo qualcosa che ti dà fastidio, che si rallenta, parla di come è elastica il tempo, ecco. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo nella traccia dove del vostro disco, appunto, Hippie Tendencies. Ricordiamo ancora una volta, è uscito già da qualche tempo. Dove si può trovare, Lisa? Si può trovare online on Halidin.com, I believe it is, or .it. .com, Halidin dot something. And si può trovare su iTunes, però ovviamente Halidin è più carino perché così prendi anche questa bella lavoro fisico e non solo quello online. E poi anche CD Baby vende il nostro CD. O dei nostri concerti, chiaramente. O tra migliore, ovviamente. Sì, i migliori negozi di dischi. Esattamente. Ok, perfetto. Grazie agli Hippie Tendencies. Buon rientro nelle vostre case e soprattutto buona musica. E grazie ancora. Oh, grazie di voi. Grazie, ciao. Ciao. Bene, ciao. Maurizio, anche ciao noi salutiamo da parte di Flavio Bilato. E Maurizio Cazzavara. È proprio tutto. Buona serata, buona musica ancora dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Radio Veneto. Why does it seem as if time is just sand that always shifts? I try to hold it in my grip and it stills when I'm here with you. I'm heels up kicking, all sublime. The clock stopped, it's ticking. It feels just like I'm tripping and it stills when I'm here with you. Time is on the inside, precious and relentless. Gotta learn my lesson, cause time is on the inside. Every day that passes, lost among the masses. It's ticking, it feels just like I'm tripping, and it stills when I'm here with you. Time is all the essence, precious and relentless. I gotta learn my lesson. Time is all the answer.